Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Immaginate un treno ad alta velocità partito da Milano e che arriva a Roma, stazione Termini. I passeggeri della carrozza top, insomma, quella più privilegiata, è piena di cadaveri. Tutti i passeggeri sono stati uccisi. Il problema è capire da chi sono stati uccisi. Si intuisce che probabilmente è stato usato un gas, perché insomma la morte è avvenuta quasi contemporaneamente. Questo è solo l'incipit, l'attacco del nuovo thriller di Sandrone Dazieri, che si intitola L'Angelo, pubblicato da Mondadori. Sandrone Dazieri era famoso fino a qualche anno fa come noirista, per esempio per aver inventato il personaggio del gorilla, no? Che era un ex investigatore, ex Leon Cavallino, per chi non è di Milano, insomma, che frequentava i centri sociali come il Leon Cavallo. Adesso da qualche anno, a partire da Uccidi il padre, più che di noir stiamo parlando di thriller vero e proprio. Dazieri tra l'altro è anche sceneggiatore di serie TV come per esempio Squadra Antimafia e RIS Roma. Allora Sandrone, la prima cosa, insomma, che i tuoi lettori normalmente a questo punto si domandano è: sei al secondo thriller, tra l'altro con gli stessi protagonisti, Colomba Caselli e Dante Torre. Insomma, stai definitivamente abbandonando il noir o questa del thriller è una parentesi? Io penso che il genere lo definiscono le storie. Quando ho pensato alla storia di Uccidi il padre, che è il primo libro della trilogia che vedrà come protagonisti Colomba e Dante, ho capito che doveva essere un thriller per tutta una serie di motivi, il tipo di indagine, il tipo di risvolti, i colpi di scena. E mi sono reso conto che riesco a raccontare meglio alcune cose che mi spaventano, mi fanno paura, più del noir. Il noir, oltretutto, mi ha un po' stancato, perché in Italia è diventato tutto noir. Qualsiasi cosa venga scritta in cui c'è un'indagine, fosse anche la cosa più minestrina possibile, è un noir, mentre in realtà il noir dovrebbe essere un'indagine sulle ragioni del male, sulle ragioni della colpa. Solo che questa cosa accade molto poco. In questo romanzo ci sono paure che riguardano molto il presente, per esempio la paura del terrorismo islamico, perché inizialmente si pensa che queste persone a bordo di questa carrozza del treno siano state uccise in un attentato dell'ISIS. C'è anche una rivendicazione, poi naturalmente si vedrà come andrà a finire. Ecco, come mai ti agganci così spesso alla realtà, alle paure del reale? Perché questo può essere incisivo, per esempio, per i lettori, li può coinvolgere di più? No, perché coinvolge di più o meno nel momento in cui scrivo. La cosa che cerco sempre di fare è quello di tirare fuori le cose che veramente mi spaventano, mi preoccupano, mi indignano, cioè in qualche modo hanno una carica emotiva su di me. E il lavoro che faccio nella costruzione della storia è quello di cercare di riprodurre nei lettori questa cosa, questi miei sentimenti, chiaramente in un mondo inventato, metaforico rispetto al nostro. Quell'attentato non è mai avvenuto e non avverrà mai così in quel modo, i personaggi non esistono, ma c'è una cosa di fondo: il mio smarrimento come cittadino di fronte a quanto accade e la sensazione, sempre come cittadino, di non sapere mai le cose fino in fondo. Quindi l'idea è: noi non sappiamo la verità, dobbiamo farci delle domande. Una cosa che dice anche il mio protagonista all'interno del romanzo, facendo una sorta di conferenza all'università, dice: le leggende urbane, le teorie del complotto non è che vanno prese per quello che sono, vanno prese come segnale che c'è qualcosa che non va, che ci sono delle informazioni che mancano, che ci sono delle paure diffuse che non trovano risposte. La cosa che noi dobbiamo fare come abitanti del presente è indagare e trovare le nostre risposte. Hai citato uno dei protagonisti del tuo romanzo che fa questa conferenza, che è Dante Torre. Dante Torre l'abbiamo conosciuto in Uccidi il padre, perché aveva raccontato il suo progresso, cioè da ragazzino era stato chiuso 11 anni in un silo da un uomo chiaramente squilibrato, e poi inizia a collaborare con la polizia per la ricerca soprattutto delle persone scomparse. In questo caso, come in Uccidi il padre, collabora con Colomba Caselli, che è un vicequestore. Anche lei ha un passato che in questo romanzo inizia un po' a chiarirsi, un po' tormentato. Si capisce che è stata presente ad un attentato a Parigi, questo le ha provocato poi attacchi di panico, scompensi psicologici, nevrosi e così via. Ecco, questa è una strana coppia, potremmo dire, del thriller all'italiana, perché sono due personaggi apparentemente molto fuori, che però riescono a indagare all'interno comunque delle istituzioni. Sì, per alcuni versi sì, con tutti i limiti che l'essere fuori dalle istituzioni, ecco. Per alcuni versi ti provoca. Però diciamo che è un po' la mia visione del mondo. I miei eroi, tra virgolette, sono sempre persone abbastanza complesse e lontane da quelli che sono i canoni di normalità o di normotipicità, come si dice oggi. Colomba, prima di conoscere Dante, era la classica poliziotta, come dire, la testa quadrata, che vedeva il mondo in bianco e nero. Le accade questo attentato a Parigi, chiamato, che lei chiama il disastro, e da lì in poi capisce che il mondo non è in bianco e nero, c'è qualcosa di più. E trovare Dante, che non ha mai pensato che il mondo fosse in bianco e nero, ma anzi ha tutte le sue teorie sul mondo, vede il mondo diversamente da lei, crede effettivamente che le informazioni vengono sottratte, che non bisogna fidarsi della polizia, che non bisogna fidarsi di nessuno. Lui non si fida di nessuno, non è paranoico, ma diciamo sospettoso. Cominciano a legarsi e a fare una strana coppia, ognuno dei due con le proprie debolezze sostiene l'altro. Colomba deve tornare è tornato in servizio, ma non è più il poliziotto che era, quindi non è più adatto. I colleghi le dicono: tu non sei più uno di noi. E lei, quando capisce che forse dietro questo attentato c'è qualcosa di diverso da quello che viene raccontato, ma che soprattutto i suoi superiori le dicono: senti, se i servizi dicono che hai stato ISIS, ma devi piantare di rompere le scatole. Sì, ma poi ci sono anche diciamo pseudo rivendicazione. All'inizio tutta l'indagine è concentrata appunto su degli imam, su delle moschee, su dei personaggi sospetti. Perché questo attentato fa sì che parta la paranoia. Cioè, le istituzioni cosa fanno? Dico: bene, c'è stato un attentato di ISIS, cominciamo a rastrellare le moschee, le cose che poi è successo in Germania dopo l'ultimo attentato. Però lei, rendendosi conto che la realtà non è quella raccontata, invece di dire: ok, faccio quello che devo fare, obbedisco agli ordini, ritorna da Dante e lì ricomincia veramente l'indagine. E infatti Colomba e Dante poi capiranno veramente, non ve lo diciamo, state sereni, che cosa e chi c'è dietro questi. Possiamo dirlo perché appunto dà il titolo l'angelo. A questo proposito, tu a un certo punto scrivi in un dialogo fra Colomba e Dante: ti stavo dicendo di Ghirtine, il nome deriva da una parola che significa pungere in un antico dialetto indoeuropeo. Secondo la tradizione appare come una vecchia o una bella ragazza con una coda da scorpione al posto della lingua. Veniva adorata intorno all'anno 1000, i devoti le offrivano galli neri o fiori gialli. Questa Ghirtine è appunto l'immagine, l'angelo, insomma l'angelo del male, l'angelo della morte, la persona che c'è dietro tutti questi attentati. Come mai hai voluto recuperare questa immagine di un personaggio di tradizione dell'Est Europa? Un po' perché per le mie relazioni con l'Est Europa, visto che sono sposato con una donna russa, ma perché casualmente, leggendo un testo sui simboli della morte, che ogni tanto leggo di queste cose, è il mio mestiere, ho trovato questa figura mi piaceva, e perché si sposava con l'idea che avevo di questa Ghirtine, di questo angelo che appare nel titolo del romanzo, ovvero sia una donna che misteriosamente agisce e che fa una serie di stragi, di omicidi, spesso utilizzando altre persone, manipolando, facendo, e che nessuno sembra afferrare, è letale appena nel momento in cui si muove. E a differenza di Uccidi il padre, dove tutta la storia era cerchiamo di capire chi è il padre, no? E alla fine si scopre chi è, insomma, posso che dire. Era quello che insomma aveva tenuto 11 anni prigioniero, esatto, Dante Torre chi è questa Silo? Persona per... In questo invece noi sappiamo subito che è Ghirtine. L'angelo, insomma, la responsabile. La vera responsabile, ma non sappiamo perché. E noi un po' alla volta, mentre vediamo i nostri che cercano di capire chi è davvero questa, noi vediamo la sua storia in parallelo. E vediamo la storia di Ghirtine e vediamo a cosa è stata sottoposta, dove ha vissuto, per cosa ha fatto. E lentamente ci rendiamo conto che si è cattiva, però forse qualche ragione ce l'ha pure. Perché ci sono le prime due pagine, diciamo una mini prologo in cui poi si capirà che si parla di Ghirtine, vi assicuro. È qualcosa che toglie il fiato, veramente spaventa moltissimo. Benissimo, no, è quello che voglio. Io te lo dico sempre, Sandrone Dazieri, tu mi togli il sonno. Ogni volta che devo leggere un tuo thriller, cerco di non leggerlo di sera prima di andare a dormire, perché altrimenti gli incubi sono incredibili. Tra l'altro, questo, come del resto Uccidi il padre, insomma, questi thriller sono scritti con un ritmo incredibile. Cioè, giri la pagina e sempre succede qualcosa. Questa tua caratteristica viene un po' anche dalla sceneggiatura televisiva, cioè dal fatto che sei abituato a scrivere molti dialoghi, a scrivere cose che devono sempre attirare l'attenzione. C'è, come dire, una commistione fra i due generi? C'è sicuramente una commistione. Diciamo che la cosa in base è la scrittura. Io quello che ho sempre cercato di fare nei miei quasi 20 anni da scrittore è stato quello di togliere tutto quello che nei romanzi c'era di superfluo. Una cosa che mi è sempre da fastidio quando all'interno di un genere può essere più o meno contaminato, ci sono delle cose chiaramente fatte per essere, perché sono scritte bene, belle pagine, una bella pagina, che rallenta il ritmo e così via. Questo non mi piace, io cerco sempre di toglierlo, e questo ho fatto anche in televisione. In televisione quando fai una serie TV è un po' più semplice, perché tu hai una sceneggiatura, la sceneggiatura è fatta di scene che si giustappongono, e per uno sceneggiatore è abbastanza semplice dire qua è inutile, tiro via. Quindi devi assolutamente trovare il centro della questione, e quindi quello che ho fatto in televisione, ma in qualche modo mi ha aiutato anche a farlo poi nella scrittura dei libri. Quello che dico sempre è che tra la prima stesura dell'Angelo e l'ultima, io ho tolto qualcosa come un centinaio di pagine, proprio perché erano, non tutte insieme, non era un blocco, però pagina qui. Sì, perché così si rende più incisiva, insomma, il ritmo, la lettura. Se io sono sempre per tagliare. La regola, secondo me, deve essere sempre questa: se non serve, toglielo. Non serve toglierlo. Abbiamo detto che l'Angelo fa parte di una trilogia. Il primo, Uccidi il padre. Il secondo, appunto, l'Angelo, sempre Dante Torre, Colomba, Caselli, protagonisti. Beh, ci devi necessariamente dire qualcosa sul terzo. Il terzo si chiama, non ha ancora un titolo, il titolo dovrebbe essere Fratelli, tra virgolette, e dovrebbe uscire quest'estate, e chiude una delle indagini che ha tenuto banco, diciamo così, con Colomba e Dante. Noi dal primo romanzo, a parte risolvere il caso che c'è sempre padre, un filo invece centrale. C'è un filo che è legato, perché ha letto Uccidi il padre, ma non dico niente di strano, all'identità di Dante, che cosa gli è successo davvero nel suo passato. E questa cosa ce la portiamo dietro nel secondo romanzo, con La caccia a Ghiltinè, e nel terzo romanzo avrà la sua soluzione. La mia idea era quella di costruire come tre capitoli di un grande romanzo, in ogni grande nel senso di dimensioni, non mi sto autoincensando, per carità, lascio che lo facciano gli altri. Sto scherzando. Il primo libro era quindi un caso, risoluzione, partenza di una storia che prosegue nel secondo libro, caso, risoluzione, terzo libro, caso, risoluzione, risoluzione definitiva. In questi tre libri i personaggi non rimangono identici a se stessi, ma hanno un'evoluzione. Colomba del primo romanzo non è la Colomba del secondo, e così anche Dante. Ovviamente non posso dire niente del terzo, perché dovete prima leggere la fine del secondo. Un'ultima domanda. Tu sai che ci sono dei lettori molto nostalgici e anche abitudinari. E allora io mi immedesimo in loro e dico: va bene, ci piace tantissimo Colomba, anche Dante, però qualcuno dice: ma il gorilla ormai è esaurito, o prima o poi tornerà a raccontare qualche altra storia? Ma c'è una storia a cui sto pensando che potrebbe essere molto adatta al gorilla. Finita questa trilogia, peraltro, dovrò pensare anche a cosa scrivere dopo. Ho due o tre ideuzze, tra cui la possibilità di riprendere il personaggio. È un personaggio che mi ha accompagnato, come sa chi mi legge, è il mio alter ego, perché ha il mio nome, il cognome e così via, ha vissuto parte della mia vita. Quindi devo raccogliere un po' di esperienze di vita prima di poterlo far agire ancora, perché devo rendere metafora la mia vita e farlo diventare quella del gorilla. Al di là di questo c'è proprio una storia che mi piacerebbe raccontare, può darsi che la scrivo. Grazie allora Sandrone Dazieri, ora in libreria con L'Angelo, pubblicato da Mondadori. L'abbiamo detto, un thriller di quelli che veramente vi tiene inchiodati alla pagina, che possiamo dire così, sì, la seconda parte, insomma, è comunque una sorta di sequel di Uccidi il padre, fa parte di una trilogia, e poi la prossima estate potremo leggere anche l'ultimo volume. Si possono leggere anche in ordine sparso. È vero, però se lo si legge in ordine è più bello. Ah, certo. È più bello. Quindi comprateli tutti. Grazie Sandrone Dazieri. Grazie a te. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Volevo solo andare a letto presto. Dietro questo titolo c'è tutta l'ironia, la capacità di far divertire il lettore, anche un ritmo incredibile di una scrittrice che si chiama Chiara Moscardelli, e questo romanzo, appunto, Volevo solo andare a letto presto, è pubblicato da Giunti. Molti di voi probabilmente ricorderanno Chiara Moscardelli per quello che è stato il suo esordio di grande successo, Volevo essere una gatta morta. E poi ci sono stati romanzi come La vita non è un film, Quando meno te l'aspetti, insomma ne abbiamo parlato già spesso. Il cacciatore di libri, potete recuperare le vecchie interviste su radio24.it. Chiara, in questo Volevo solo andare a letto presto, la protagonista è Agata Trambusti, una donna che ha 35 anni, questa volta non hai usato esplicitamente un tuo alter ego, non è la Chiara Moscardelli che era stata protagonista di alcuni dei tuoi romanzi, e troviamo questa donna di 35 anni, ipocondriaca, ha paura dell'aereo, ha la tendenza al controllo, insomma ha tutta una serie di particolarità, e nella vita lavora per una casa d'aste.